Buonasera cari ascoltatrici e ascoltatori di Radio Exalge, questa radio web appena nata, messa in piedi dai ragazzi coraggiosissimi che portano avanti questa realtà milanese emersa tra la primavera e l'estate del famoso e turbolento 2020. Io mi chiamo Nina Terruzzi, sono molto contenta e onorata di avere la possibilità di passare un'ora alla settimana con voi condividendo la musica che amo. Il titolo di questa trasmissione è Casa da Paes Radio Edit ed è un omaggio a una realtà di musica dal vivo esistita a Milano per circa 3 anni e momentaneamente sospesa per tutta una serie di motivi, alcuni facilmente immaginabili, altri meno, ma che appunto non vuole smettere di mandare lo stesso messaggio che ha provato a costruire nei mesi in cui è stata attiva, ovvero che c'è una produzione musicale che ha bisogno di spazio e di ascolto e a cui secondo me va dedicata quanta più attenzione possibile. Era così prima del Covid, è così a maggior ragione adesso e quindi sono ulteriormente contenta di avere la possibilità di poter parlare qui e soprattutto di poter condividere la produzione contemporanea di jazz e di tutto quello che sotto questo cappello coinvolge in realtà tantissime altre deviazioni del genere, totalmente al passo con quanto intorno a noi accade. La sigla di questa trasmissione si chiama Pueblo, è di Achilles Navarro e Cesar Holmes, è contenuta in Heritage of the Invisible, un loro disco uscito nel 2020 per un'etichetta di cui sentiremo parlare spesso qui che si chiama International Anthem ed è un'etichetta di Chicago che fa delle cose molto interessanti. La natura di questa trasmissione sarà soprattutto musicale e più che parlata, per cui direi di passare subito alla musica. Quello che ascoltiamo ora è un brano di Mary Alverson, chitarrista statunitense che guida un progetto che si chiama Code Girl. Con questo gruppo ha inciso un pezzo di cui mi sono innamorata al primo ascolto, si intitola Spirit Splitter e è contenuta nell'album Thank you. Thank you. Dopo Mary Halverson abbiamo ascoltato Makaia McCraven, un batterista afroamericano che sta spopolando negli ultimi anni, appunto nella scena indipendente del jazz contemporaneo. Ha fatto un disco nel 2018 molto complesso, nel senso che è stato registrato in 4 città diverse tra l'Europa e gli Stati Uniti, e il disco si chiama Universal Beings e il brano che abbiamo ascoltato si chiama Young Genius. Lo riprenderemo di sicuro. Ci spostiamo adesso in Italia, ascoltiamo un brano dal vivo contenuto in Volverse, live in Trieste. Lei è la contrabbassista Rosa Brunello e questo brano si intitola Christmas Tree. Thank you. Thank you. L'Italia vanta un sacco di musicisti e di progetti musicali di altissimo livello e di cui molti di noi ignorano l'esistenza. Abbiamo ascoltato adesso tre brani tutti guidati da musicisti italiani: Christmas Tree di Rosa Brunello, Upper Manhattan Medical Group, che è un standard suonato dal trio di Alessandro Lanzoni, un pianista toscano, qui con due musicisti americani, Thomas Morgan al contrabbasso, Eric McPherson alla batteria. Questo è un disco bellissimo, uscito un paio di anni fa, che si chiama Unplanned Ways. E dopo di lui Oyana, che è un duo formato da Alessandra Bossa e Ludovica Manzo, che qui hanno ospitato il batterista Michele Rabbia in un brano dal titolo Rage, contenuto nel loro disco del 2018 Inland Images. E continuiamo con delle produzioni italiane. Il brano che ascoltiamo adesso è I Dance to the Silence, del primo disco di Don Karate, a.k.a. Stefano Tamborrino. Thank you. Il desiderio è darvi in questa prima ora di Casa da Paese Radio Edition un po' il sapore di tutto quello che può essere contenuto dentro questo enorme cappello che è la musica jazz strumentale contemporanea che viene prodotta oggi in Italia e nel mondo. Molto diversi sono I Dance to the Silence, Don Karate e Vulpecola del quintetto di Piero Brittolo Bon, Bread and Fox. This is Sour Music è il disco firmato da questo sassofonista uscito nel 2019. Tutti i brani che abbiamo ascoltato fino adesso sono brani recenti e registrati e prodotti da musicisti ancora classificabili come più o meno giovani. Questo non si può dire del musicista che ascoltiamo adesso, in quanto a livello anagrafico si tratta di un pianista che ha compiuto 80 anni l'8 marzo del 2021, ma che rimane una fonte inesauribile di novità e di freschezza. Lui è Franco D'Andrea, è in una formazione in trio con Mirko Cisilino ed Enrico Terragnoli, rispettivamente a tromba e chitarra elettrica, e ascoltiamo March. Thank you. Siamo arrivati ormai alla conclusione di questa prima ora di Casa da Paes Radio Edit, che spero abbiate gradito. Io non posso che chiudere questa trasmissione con un brano che è stato uno dei pezzi che ha iniziato tutto quello che per me è stato questo percorso di amore per questo genere musicale. Si tratta di un brano del sestetto Figli di Pulcinella, una band milanese che se non conoscete vi consiglio caldamente di andare a cercare. Vi lascio quindi con il Pulcinella Fight Club dal loro secondo disco Osmosi, che trovate su Bandcamp, tra l'altro acquistabile, come praticamente tutti i brani che abbiamo ascoltato. Vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento a settimana prossima. Buon proseguimento di serata.